известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Didar Boobie's horn. That's what fans usually hear at wrestling matches in Iran. E insomma c'è stata la strategia del ping pong, ricorderete, no? Richard Nixon, Mao, quella pallina, quelle racchette, quelle partite che aprirono un procedimento straordinario di pacificazione. Adesso forse potrebbe, ma chissà, esserci la strategia della lotta libera, se è vero che una nazionale americana di lotta libera, per l'appunto, è andata in Iran e si è confrontata con gli atleti della rappresentativa nazionale iraniana, e c'è stata una atmosfera festosa con le trombette che avete sentito all'inizio, gli atleti che si sono abbracciati, i dirigenti che hanno familiarizzato, in realtà tutto ciò in un palazzetto dello sport che sembra semi deserto e che non va molto d'accordo poi con le notizie che arrivano da Washington, secondo le quali Barack Obama avrebbe esteso per un altro anno le sanzioni americane contro l'Iran a causa del programma nucleare che Teheran continua a portare avanti, e in generale a causa, così si dice, dell'operato del governo iraniano. La Casa Bianca lo comunica ufficialmente e aggiunge che l'Iran continua a costituire una minaccia straordinaria alla sicurezza nazionale, oltre che alla politica estera, all'economia americana, e che le sanzioni, che ormai vengono rinnovate interrottamente dal 1995, resteranno ancora in vigore. A questa dichiarazione del neopresidente Obama ha reagito il presidente iraniano in carica Mahmoud Ahmadinejad, che ha detto di farsi una bella risata davanti a questa decisione, più o meno quello che dice tutti gli anni. Ha definito l'apparato messo in piedi dalla comunità internazionale per impedire all'Iran di realizzare il piano nucleare che sta perseguendo, lo ha definito una idea puerile, parlando a una cerimonia per il lancio della procedura di estrazione di gas naturale nel Golfo. Ahmadinejad ha detto anche che i tentativi di ostacolare lo sviluppo dell'Iran con sanzioni sono un grosso errore, e che di conseguenza, per quanto lo riguarda, si va dritti per la propria strada. L'Iran è la minaccia straordinaria, le idee di sanzione sono una idea puerile. Poi comunque si capisce che queste sono anche le prese di posizione di facciata, sotterraneamente in realtà non solo a base di rappresentative di lotta libera, ma con un approccio più costruttivo e anche più importante, più serio, sono in corso le manovre di avvicinamento. Ma come ci si rende conto da queste ultimissime, insomma, si fanno due passi avanti e uno e mezzo indietro, e tutto sarà lento e assai cauto. Ci sono altre notizie che riguardano gli scenari internazionali di cui vogliamo mettervi al corrente, perché sono legati a filoni che stiamo seguendo da diversi giorni. Per esempio ci preme informarvi che il primo ministro giapponese Taro Aso ha invitato ancora una volta la Corea del Nord a fare un passo indietro nel suo progetto di lancio di un satellite sperimentale, che forse è un missile. Insomma, Aso, il primo ministro giapponese, avrebbe detto: qualsiasi cosa sia, si tratti di missile o satellite, bella questa cosa, non riescono neanche a capire cosa stanno spedendo per aria i coreani, sarà comunque una evidente violazione della risoluzione 1718 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E ha ventilato dunque Aso l'ipotesi che il Giappone, che siede nel Consiglio, possa, con l'accordo e il coordinamento di americani e coreani del Sud, chiedere una condanna di Pyongyang e nel caso prosegua, porti a compimento i suoi propositi, e poi di passo in passo arrivare addirittura all'abbattimento del missile. Non vi è alcun paese al mondo che abbia testato un missile balistico a lunga gittata passando sopra un altro paese, ha detto ancora il primo ministro giapponese. Non ho alcuna intenzione di consentire che questo possa accadere ai danni del Giappone da parte della Corea del Nord. Un paio di giorni fa abbiamo approfondito anche con degli addetti ai lavori la questione, tutti hanno minimizzato, tutti hanno detto sono schermaglie diplomatiche, sono un braccio di ferro ricorrente in questo genere di situazione. Di fatto la cosa va avanti, secondo me mantiene comunque un tasso di allarme e pericolosità. Trapela tra l'altro da un'agenzia di stampa sudcoreana che il lancio del missile dovrebbe avvenire tra il 4 e l'8 aprile. Il missile Taepodong 2, secondo la CNN, potrebbe arrivare a una distanza di 6.700 chilometri, quanto basta per colpire l'Alaska o le Hawaii, e il test in questione dovrebbe riguardare proprio una messa a punto di questo Taepodong 2, ma altrimenti i coreani sostengono trattarsi di satellite, innocuo satellite per le telecomunicazioni e quant'altro. Poi abbiamo aperto i giornali americani, ad esempio il New York Times. Fa molto impressione guardare, leggere il New York Times di questi tempi, poi reduci, no, da una grande galoppata come quella della campagna elettorale 2008. Sulla prima pagina del New York Times si parla quasi esclusivamente di quattrini. Tutti i titoli degli articoli principali riguardano i soldi, i banchieri che lamentano le troppe regole che li costringono adesso a muoversi con troppa cautela, la Svizzera che si dice pronta ad abbassare i livelli di secretazione dei suoi conti, le dichiarazioni del primo ministro cinese Wang Jiabao, che dice abbiamo prestato molto denaro agli Stati Uniti, siamo preoccupatucci, questo lo dico io, insomma, ma lui l'ha detto con molto garbo, per la sicurezza dei nostri investimenti, della serie dove sono i nostri soldi. Per essere franco, ha aggiunto Wang Jiabao, sono un po' preoccupato e per questo vorrei di nuovo invitare gli Stati Uniti a rispettare la loro parola e i loro impegni a garantire la sicurezza agli investimenti cinesi. Beh, questa ci sembra, come dire, un approccio estremamente, appunto, garbato, educato a chi comincia a non vedere con troppa limpidezza la destinazione dei propri fondi. A margine della stessa incontro stampa, Wang Jiabao tra l'altro ha parlato ancora di Tibet, diciamo anche di questo, si è detto pronto al dialogo col Dalai Lama se questo rinuncia ai propositi e ai discorsi di indipendenza. Secondo Wang Jiabao la situazione in Tibet è pacifica e stabile, il che a sua detta proverebbe la correttezza della politica della Cina nella regione. Di tutto si parla in prima pagina New York Times, sempre a sfondo quattrini. Pensate che anche l'articolo, diciamo così, leggero, no, della prima pagina, quello dedicato più allo show business, finisce per parlare di soldi e ci fa sapere che nelle televisioni americane di ogni ordine e grado, da quelle via cavo, magari più orientate al gossip, addirittura a quelle via web che stanno andando molto bene oltreoceano, ai grandi network, in realtà che sta succedendo? Che al posto dei soliti VIP, no, del consueto VIP-aio, quello dei nostri programmi pomeridiani, delle varie cronache italiane, anche loro hanno le loro cronache americane, i programmi di Oprah e quant'altro, adesso, insomma, piuttosto che parlare di Britney Spears si parla più volentieri di Bernard Madoff, perché il semplice fatto è che fa più ascolto, la gente è più interessata a sapere, a conoscere i segreti, no, di questi Master of the Universe, padroni dell'universo, adesso caduti in terribile disgrazia o addirittura rinchiusi dietro le sbarre di una prigione come Madoff, per cui si fa a gara all'interno delle redazioni dei programmi di informazione, dei magazine televisivi, a cercare argomenti di questo genere, e partono serie come quella della NBC intitolata Inside the Financial Fiasco, dentro il fiasco finanziario, oppure To Catch a Predator, a catturare un predatore, laddove per predatore di questi tempi in America si indica proprio, no, un personaggio alla Madoff che ha costruito le proprie fortune e il proprio conto in banca grassando su quello degli altri, distruggendo, rovinando migliaia di persone. A margine di tutto questo circola una notizia negli ambienti economici americani che ha fatto molto rumore e che si connette, no, a quel piccolo sasso in piccionaia che ieri ha tirato Barack Obama dicendo: guardate che l'economia va male, ma non va così male come ormai è normale, è mainstream, è naturale che tutti dicono. Le cose vanno leggermente meno male di quanto si supponga. E poi arriva la notizia che Citigroup prende, no, il volo in borsa dopo che il presidente Richard Parsons ha fatto letteralmente spalancare gli occhi a tutti gli americani dicendo che la sua banca non ha bisogno di altre ricapitalizzazioni da parte del governo, che ha estrema fiducia nel futuro della banca, che resterà completamente quindi in mani private. Che siano primi segnali, no? Prime crepe che si cominciano a manifestare in questa cappa, no? Cappa di piombo, di cristallo. Vi ricordate l'immagine della cappa evocata al suo tempo da Hillary Clinton, quando diceva che le donne devono rompere la cappa, no, che comprime il loro futuro? Beh, forse adesso l'America sta cominciando ad aprire, ma solo forse, qualche crepa in questa cappa oscura e assai angosciosa che ha ricoperto a lungo, da diversi mesi a questa parte, e minaccia di ricoprire ancora più a lungo la sua economia. Succedono di tutti i colori, no? L'avete voluta la globalizzazione, adesso ve la prendete, compresa la notizia che in Azerbaigian, paese sul quale non ti vedo preparato come vorrei, caro Emiliano, c'è un sosia di Barack Obama. Questa mi sembra una notizia degna di Borat. Ti ricordi di Stavo pensando anch'io a Borat. Il costumino verde. Dunque, in Azerbaigian sta facendo fortuna un signore che si chiama Asif Mustafayes, che è di professione fa il sosia di Barack Obama in alcune gag che saranno sicuramente esilaranti, no? Adesso lo andremo a cercare su internet, potete farlo anche voi. Asif Mustafayev, che viene da un posto che si chiama Gabala, la regione della base radar russa, e qui vedi come tutto torna, poi una proposta da anni da Mosca agli Stati Uniti come alternativa alla dislocazione dello scudo USA, ma in realtà, insomma, più successo della base radar ha avuto il nostro sosia di Barack Obama, Asif. Express yourself. potremmo fare un format, importarlo in Italia, dargli un sacco di soldi. Tra l'altro tra poco andremo in un posto russo non meglio noto. Sì, abbiamo i nostri informatori anche da quelle parti, spediti naturalmente. Non so se vicino o lontano dall'Azerbaigian. Con l'aereo privato di Jefferson. Con la geografia non ci azzecco. Vabbè, va. Dunque, chiudiamo la settimana di Express Yourself collegandoci, connettendoci a un tema estremamente serio, anzi del tutto tragico, che ha contrassegnato questa settimana. È successo tutto in poche ore, in una mattinata, ricorderete, due stragi hanno letteralmente pietrificato Stati Uniti e Germania, ma direi tutto l'Occidente, hanno lasciato per terra 27 vite umane e un paio di killer, un americano 28enne infelice di come gli andava le cose e un 18enne gli andavano le cose, un 18enne tedesco infelice dei suoi rapporti soprattutto con le ragazze ma in genere con la società, hanno pensato bene a risolvere la loro rispettiva infelicità sparando a man bassa su tutto quello che si muoveva davanti alle loro armi, riaccendendo una annosa questione, una questione tragica di stragi casuali, che c'è chi dice che a parlarne ecciti, no, possibilità imitative. Io devo dire, queste storie le seguo da molti anni e non ho mai visto poi sorgere, come dire, veri filoni imitativi, per fortuna, perché poi tanto sono casuali, tanto restano nella loro isolata casualità imprevedibili. Mi sembra più questo un filone di preoccupazione, di elaborazione della questione. Comunque vi abbiamo chiesto se si sente da parte vostra il bisogno di parlarne, di capire, e a questo punto qual è il vostro punto di partenza nel ragionamento davanti a questa devastante produzione, no, di violenza nel contemporaneo. Allora, oggi, cari ascoltatori, abbiamo stampato veramente pagine e pagine di commenti che hanno affollato la nostra bacheca di Express Yourself. Devo dire che la maggioranza di voi ha fatto l'equazione, che io peraltro tutto sommato condivido: più armi in giro uguale più morti al cimitero. Però io invece comincerei da un messaggio persino ruvido di Simone, che è favorevole invece alla circolazione delle armi, che credo possa dare un contributo proprio ad aprire una breccia nel dibattito. E dunque Simone scrive: la restrizione legale alla libera circolazione delle armi è una soluzione tanto semplice quanto assurda, significa disarmare gli individui onesti e rispettosi della legge, mentre i delinquenti mi pare non si facciano problemi a infrangere le regole. Non è proprio così, però. Insomma. Beh, io ho preso proprio il messaggio più diverso. Evitare che le armi di un privato cittadino diventino occasione di collezionismo, un collezionismo a cui poi di solito possono attingere, per esempio, figli, fratelli e quant'altro, come nei casi in questione, il ragazzo tedesco. Non a caso quella di Simone è una voce davvero fuori dal coro, perché per esempio c'è Silvia che invece è molto cupa e dice: il problema è che per arrivare a programmare stragi del genere vuol dire che si è persa la gestione dell'emotività e della rabbia e non si considerano più le persone come esseri umani. Anche Daniele su questo filone pessimista: l'arma è un attrezzo, in assenza di pistole e fucili anche un martello può uccidere, come è successo dalle sue parti, cioè a Parma, in ben due casi. Come diceva Simenon, attraverso la bocca di Maigret, ogni persona è un criminale potenziale. Sì, però non entri in una scuola con un martello per fare una strage, insomma, anche perché non la fai poi. È più difficile peraltro farla con un martello. No, ma a me sembra che sia proprio un problema di potenzialità, cioè fare il tiro a segno stile videogioco con un'arma automatica in mano è tragicamente più facile, no? Ma io poi personalmente ho sempre avuto paura anche di me stesso, perché magari in una rissa, in una discussione, magari una pistola a tiro si può anche commettere l'irreparabile. Siamo informati, guardo già dal vetro. No, poi sono la persona più tranquilla del mondo. Dai, ancora qualcuno tu, dai. Allora, Francesco: negli Stati Uniti il controllo della circolazione delle armi è una sfida a cui Obama non può sottrarsi. Interessante anche l'angolazione di Francesco. Deve assolutamente riprendere ciò che i Clinton avevano cercato di fare, purtroppo mi sembra con deludenti risultati. Non si può mettere nel carrello della spesa, bella immagine anche questa, una semiautomatica ed una busta di latte. Poi abbiamo Giovanni che dice: ai tempi delle tirate d'orecchie dei nostri insegnanti, quindi la mette anche sul pedagogico, a scuola questi fenomeni aberranti quasi non esistevano, dunque discipline educative e pedagogiche da rivedere completamente, e poi serve anche urgentemente rieducare i genitori ad armonizzarsi nei loro rapporti con i figli. Alessandro: meno armi girano in casa, più difficile impossessarsi di un'arma da fuoco, meglio è, e questo è semplicemente quello che sostengo anch'io. Mauro: mi ricorda il bel film Un giorno di ordinaria follia, la desolante realtà è che l'industria delle armi di fatto promuove queste follie. Giulio, l'abbondanza di armi non c'entra nulla, la pensa difficilmente. Massimo, non trovo costruttivo parlarne, preferisco ignorare gli eventi o parlarne sottovoce, l'emulazione è dietro l'angolo. Ci siamo già detti non d'accordo. Francesco, troppe armi, troppa alienazione, quello che manca è il dialogo e l'incapacità di capire i problemi degli altri. C'è un solo Dio, ormai l'io. Claudio, si tratta di una sindrome che inevitabilmente colpisce le società che non hanno più valori morali e sociali. La sindrome di cui sopra l'ho coniata con il nome Muoia Sansone con tutti i filistei. Ci dobbiamo fermare qua, peccato perché ne abbiamo veramente tanto. Ne leggo un altro ancora. Luca, non credo si debba ricercare le cause di queste folle tragedie nella perdita di valori, quanto piuttosto nella crisi di identità dei giovani. Dunque, torniamo a parlare per un istante soltanto di cinema, perché c'è in circolazione un fenomeno strano di cui abbiamo intercettato i primi segni, adesso li vogliamo approfondire. Tra l'altro abbiamo apportato in mano anche un addetto ai lavori a cui possiamo, come dire, dare la commissione di aiutarci, perché che succede? Succede che in Russia, nei cinema russi, è in circolazione e sta raccogliendo un successo straordinario un musical russo anch'esso, e non il consueto prodotto hollywoodiano o bollywoodiano, che dir si voglia. Si chiama Stiliaghi ed è un musical molto anticonformista, che è ambientato nella Unione Sovietica del 1955. Non so se vi ricordate le magliette rosse con scritto CCCP, come lo leggevamo noi alla occidentale, no? E il portiere Yashin. Qui c'è una Mosca di Khrushchev, ancora prima della denuncia dei crimini staliniani, qualche prima traccia di, no, di dissenso. Gli Stiliaghi erano, appunto, venivano chiamati così, ci informano coloro, i giovani che per primi, come dire, cedevano, no? Cedevano, si facevano tentare dalla cultura americana, nel look, nella per il rock and roll, il ballo. Il film è firmato da Valery Todorovsky, un 47enne, ed è un campione in casso in Russia in questo momento. E siccome dall'altra parte del nostro lungo filo abbiamo un amico di Jefferson che si trova per l'appunto in Russia, trattasi della città di Yekaterinburg, adesso ce lo pronuncerà lui bene, noi prima di tutto salutiamo, diamo il benvenuto a Giuliano Noci. Ciao Giuliano. Ciao Stefano, buonasera a tutti i radioascoltatori. E poi ti mandiamo al cinema, se in città c'è un cinema e hai qualche ora, vatti a vedere questo Stiliaghi, musical sulla Russia, anzi sull'Unione Sovietica che non c'è più, e poi ci racconti di che pasta è fatto, insomma, se è roba consumabile, se è già possibile che da quelle parti, no, un po' come con la DDR, se già può esserci una nostalgia culturale per la Russia di quei tempi, per l'Unione Sovietica di quei tempi. Per esempio, ti sembra un fenomeno possibile una cosa di questo genere? Che dici? Ma direi assolutamente sì, nel senso che qui in questa fredda città di Yekaterinburg, ma direi anche nelle altre città della Federazione Russa che ho visitato, molte persone, anche soprattutto quelle che fanno parte della cosiddetta intelligenza, si contraddistinguono per due aspetti fondamentali. Il primo, un odio conclamato per gli Stati Uniti. Ah. Il secondo, una contestuale grande passione per il super presidente Putin, che viene visto come il salvatore della patria. La vicinanza a Putin in questo senso la vedo come uno degli elementi che può contraddistinguere questo ritorno al grande impero sovietico. E cos'è che degli americani nella nuova Russia XXI secolo ancora dà fastidio ai russi, infastidisce l'animo russo? Ma sostanzialmente i russi sono molto orgogliosi. E il fatto che la differenza dal punto di vista militare ed economico, che si è sempre più andata palesando negli ultimi decenni, ha reso in qualche modo i russi invidiosi in un certo degli Stati Uniti d'America. Secondo luogo, la potenza militare viene contestata, ad esempio, con riferimento a sommergibili fantomatici che viaggiano nei mari del nord a spiare i russi. Terzo elemento, si dice che gli omicidi, mi è capitato di sentire alcuni colleghi universitari, che gli omicidi dei giornalisti in realtà siano omicidi commissionati dagli Stati Uniti d'America. Accidente. Pensate un po'. Quindi quella famosa cortina, insomma, qualche spunzone di cortina, quella è rimasto. Ma senti, ma qualche giorno fa il nuovo segretario di Stato americano Hillary Clinton ha regalato, no, al ministro degli esteri russo, sì, quel pulsante di reset, per dire, una specie di pacca sulle spalle, no? Per dirgli: dai, proviamo, ricominciamo, come dice Pappalardo. Ma quindi non è proprio questa l'aria che respiri? No, l'aria che respiro non è questa. Devo però dire che la grande crisi economica in cui la Federazione Russa versa sicuramente potrà contribuire a un reset che metaforicamente Hillary Clinton ha dato alla controparte russa. Qui si respira, Stefano, veramente aria di crisi, al contrario della Cina, dove ero la settimana scorsa. E dacci qualche indizio di questa crisi. Che genere di crisi e con quali prospettive? Ma innanzitutto qui a Yekaterinburg, che pochi conoscono, ma ecco. Era la prossima domanda, ma raccontami un po' dove sei, poi magari anche perché, se ce lo puoi dire, ma che tipo di ambiente ti circonda? Qui a Yekaterinburg, che è la prima città della Federazione Russa in Asia, qui passa la Transiberiana e c'è una grande industria mineraria e grandi riserve di gas e petrolifere degli Stati Uniti. Qui l'economia era in formidabile sviluppo, gru ovunque fino a pochi mesi fa. Io sono venuto anche a dicembre. Cosa ho trovato adesso? Ho trovato cantieri improvvisamente, quasi come se i muratori fossero scappati, le imprese edili fossero andate via, quindi cantieri improvvisamente senza fermi. Ho trovato, e parlavo con degli interlocutori locali, una banca chiusa perché il governo l'ha presa in mano e non dico che l'ha nazionalizzata, ma in questo momento vuole vederci chiaro. Un grande hotel di una famosissima catena internazionale nota a livello mondiale, che doveva essere pronto per il prossimo aprile, in realtà anche in questo caso sono stati interrotti i lavori. Io direi che la crisi è veramente evidente, la disoccupazione sta crescendo. È davvero, parafrasando un vecchio film, ha ballato poche estati l'economia russa, no? questa grandeur a cui ci aveva abituato ormai, con i nuovi miliardari, con questo approccio così apparentemente fattivo, esecutivo, dimostra fondamenta un po' deboli. Fondamenta molto deboli per il fatto che essenzialmente non ha diversificazione, basata solo su petrolio e riserve minerarie. Il budget statale è stato fatto su un valore del petrolio di $70, adesso ne vale 40, quindi possono immaginare agli ascoltatori quanto in crisi sia la Federazione Russa. Aggiungo che ormai Putin ha quasi prosciugato interamente le riserve monetarie, che erano consistenti, valevano $500 miliardi solo un anno fa, ma sono state impiegate per nazionalizzare banche e aiutare le imprese. A questo punto gli ascoltatori, per concludere rapidamente, Giuliano, saranno curiosi però di sapere tu a Yekaterinburg che cosa sei finito a fare, ce lo puoi dire? Ma io qui in questa fredda Yekaterinburg, per la quale confermo grande interesse dal punto di vista economico-industriale, sono uno per chiudere un importante accordo universitario con la Ural State Technical University, che è l'università dove si è laureato Boris Yeltsin. Caspita. In secondo luogo sono qui per valutare l'opportunità di portare tecnologie italiane per lo sviluppo di un importante polo logistico. di Yekaterinburg, per gli radioascoltatori, se guardano la cartina scoprono che ha un enorme potenziale da questo punto di vista per fare in modo come punto di transito e di snodo per le merci che dall'Asia vanno verso l'Europa. Si potrebbe ridurre addirittura di 2 settimane il tempo di trasporto delle merci Asia verso Europa rispetto al trasporto via nave. Quindi sono qui per cercare di capire se ci sono delle opportunità che secondo me alle prime interlocuzioni sono veramente molto importanti. Bene, possiamo portare la nostra tecnologia. Certo, una prospettiva interessante, anche una ideazione interessante, quella che ci ha presentato Giuliano Noci in questo collegamento con la Russia, che così come nuovo mandato di Jefferson in questa edizione 2009, no, guarda anche oltre il bipolarismo che ci ha contraddistinto nelle prime edizioni. Adesso siamo a 360 gradi. Anche sulla messaggeria SMS, Emiliano, c'è il dibattito sulle si armi, si infiamma, tanti sono i pareri, pro e contro, più contro, ma anche qualcuno difende il diritto. Nel frattempo da CNN spunta la notizia che il killer dell'Alabama avrebbe lasciato una lettera, un messaggio in cui, in modo piuttosto delirante comunque, motiva il suo gesto, ammesso che possa essere motivato in una forma di rabbia contro la famiglia, ma ancora non è reso noto il contenuto del messaggio nella sua interezza, lo faranno nelle prossime ore. Noi è venerdì, la settimana di Jefferson finisce, vogliamo finirla su note un po' più allegre, no? tra disastri economici e tragedie della condotta umana, vogliamo prenderci una piccola vacanza e abbiamo una ricetta infallibile che ha anche un nome, non un cognome ma un nome, la ricetta ce l'ha. Il nome è Paolo, una persona che tra l'altro nonostante la sua caparbia mitezza non vedrei mai con una pistola in mano, tanto no. Per essere anche il tema dominante di oggi, italiano espatriato ormai da un anno e mezzo o poco meno, dovrebbero dargli la cittadinanza, a Shanghai, dove sta vivendo una storia d'amore entusiasmante niente, nonostante alcune difficoltà con Xiao Xuan, che è la sua fidanzata di 10 anni più giovane, lui ne ha 36, lei ne ha ormai 25-26. Ma non deve esserci un incontro con Saro? L'incontro con Saro viene procrastinato per motivi insomma strani, nel senso che in realtà Paolo, l'ho sentito ieri, abbiamo rimandato di un giorno l'appuntamento con la messa in onda della conversazione con Paolo, perché Paolo non sta benissimo, insomma, è leggermente indisposto, poi spiegherà anche i motivi altrettanto curiosi per cui non sta molto bene, quindi l'incontro doveva venire ieri, è saltato perché appunto Paolo non sta bene, ma credo che nel weekend insomma ce la faranno i nostri due eroi a Shanghai ad incontrarsi e magari così acquagliare qualcosa. Va bene, l'Italia e la Cina si incontrano attraverso queste vicissitudini. Cominciamo a ascoltare aggiornamenti dal fronte Paolo per quello che riguarda la questione del lavoro. Dal fronte lavorativo ancora nulla di concreto, continuano le lezioni di italiano di tennis, a parte oggi ieri che per problemi di salute ho disdetto. Posso dirvi che Saro in questi giorni si è rifatto vivo molto gentilmente per un pranzo da lui e ha manifestato con molto calore l'intenzione di volermi trovare un lavoro, fare da agenzia di collocamento, tra virgolette. Però vediamo, insomma. Beh, naturalmente il nostro Saro Capozzoli è un cavallo su cui puntare sempre, quindi spero che presto vi troviate e possiate trovare un punto d'intesa. Mi ha chiamato oggi, aveva una proposta un ristorante giapponese che fa cucina italiana, insomma una cosa del genere, mi ha chiesto se so cucinare, perché loro fanno ricerca del personale, ricerca e selezione, quindi ha detto che in questo periodo ha usato il termine si sta scervellando per trovare qualcosa per me, mi ha chiesto se so cucinare, ma purtroppo il sottoscritto, oltre ai classici due spaghi, non riesce ad andare. Sta facendo un po' schifiltoso. È sfumata questa opportunità di vedere ai fornelli Paolo. No, perché il ristorante giapponese che fa cucina italiana in Cina mi sembra una proposta interessante. Un posto dove puoi fare quello che ti pare. Insomma, ti leggi da italiano. Fai due uova al tegamino, gli dici, questa antica ricetta italiana. Vabbè, comunque abbiamo trovato un Paolo che sta cambiando, un Paolo sta maturando nella sua avventura cinese. Fronte sentimentale da sempre, no? Il ventre molle. Al sereno adesso, però c'è una novità importante. Sì, a casa. Ci sono visite. Ci sono visite. È tornata a farsi viva la famosa zia che ho ospitato qualche mese fa. E infatti, se, adesso non vorrei dare la colpa a lei, ma il malessere che ho avuto è dopo aver mangiato quello che ha cucinato lei ieri. Che cosa ha cucinato la zia cinese? Ma ovviamente cinese, quindi con riso, abbiamo mangiato verdure, pollo, però quello che credo a cui credo sia la causa è qualcosa vicino, non so come chiamarlo, è una specie di sedano, come il sedano, però è più piccolo, è verde scuro e più sottile, tagliato a pezzettini, insomma ne ho mangiato un po', e credo che sia quello che ogni volta lo mangio, insomma, ma ieri credo sia non stato l'hai digerito a dovere fatale. Ma la zia è ancora qui, cioè ancora lì con te a Shanghai? È da lunedì che è qui, adesso non so quanti giorni, perché ogni volta chiedo sempre alla ragazza quanti giorni sta, non lo sa. Questo è un lato La zia non si leva scuro, via. Ma cosa gli cucina poi il sedano? Ha detto una cosa tipo il sedano, ho cercato di capire qual è l'ortaggio. Cara zia, mi rivolgo a te, ma Paolo è un ragazzo italiano, il sedano cinese non lo tra l'altro digerisce. La zia non parla una parola di inglese, lui non parla una parola di cinese, quindi ambiente teso, non si parlano mai. Però dice che è una persona a modo. A modo. Dobbiamo sbrigarci perché è tardi, sentiamo se ci sono prospettive di rientro. Mi piacerebbe tornare per un breve toccata e fuga per salutarlo, per vedere, è che ovviamente non, il viaggio non è dei più economici, dei più, anche se ho visto un sito su internet che ho visto i prezzi dei voli molto molto molto bassi, la metà diciamo di quello che spendevo una volta, quindi questo un po' mi potrebbe spingerti magari per Pasqua a tornare in Italia per una breve vacanza. Se i prezzi 350 euro, quando una volta pagavo 800 tra andata e ritorno, ma se i prezzi restano questi, magari un pensierino potrei farlo, insomma, vediamo. E visto che la situazione euro-yuan è quella che è, ho approfittato di questa situazione che l'euro adesso è molto giù, e ho cambiato un po' di soldi in euro, e ovviamente spero che la situazione tra un po' di tempo ritorni a essere normale, e quindi se le cose vanno come credo, come spero, poi se contro ricambio gli euro che ho cambiato di nuovo in yuan, dovrei ottenere un po' di soldini. Quindi nel tuo piccolo hai fatto una speculazione, stai cercando di fare una speculazione con il cambio yuan euro. La maggior parte dei risparmi che ancora ho, perché adesso un euro è valutato 8 e io ho cambiato 8,65. Un anno fa un euro erano 11 yuan. Lo speculatore, speculatore veneziano, è un ragazzo che di il Marco Polo del XXI secolo, giustamente, come dite voi, salutando Paolo, a cui vanno anche i nostri saluti, il nostro affetto, soprattutto il nostro affetto, la nostra simpatia nel seguire le sue imprese, che ormai sono diventate anche un po' nostre qui a Jefferson 2. L'arte da svolta, io sono Stefano Pistolini, qui c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti e Filippo Aureggi a Milano, la mail jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, iscrivetevi per partecipare ai nostri dibattiti, trasmissione sul sito della radio in podcast disponibile, speriamo il più presto possibile, in replica alle 24 e naturalmente in diretta, ma solo lunedì attorno alle 4 dopo un magnifico weekend per voi tutti, ci risentiamo. Jefferson 2, l'arte della svolta.